668. Dolce di cioccolata. Pane di Spagna grammi 100, cioccolata grammi 100, burro grammi 50, zucchero grammi 30, rosolio quanto basta. Tagliate a fettine il pan di Spagna. Grattate la cioccolata. Fate liquefare il burro a bagnomaria e nel medesimo versate lo zucchero e la cioccolata, lavorando il composto con un mestolo finché non lo avrete ridotto ben fine. Con questo il pan di Spagna intinto nel rosolio, riempite a strati uno stampo che avrete prima bagnato con lo stesso rosolio per poter meglio sformare il dolce. D'estate tenete lo stampo nel ghiaccio onde si assodi il composto. Questa dose potrà bastare per 6 persone.